in scena ufficialmente parte per la vigilia di weekend 23 giugno, è venerdì, sono le 8:04 minuti ed è bellissimo iniziare la conversazione telefonica fuori onda con Claudio Borgianni, incoraggiamento che arriva da Fondazione Entroterre con guarda che le 8 è l'orario in cui si lavora. Oh, finalmente, perché di solito insomma ho sempre timore per quanto riguarda questi orari. Invece ho avuto parole d'appoggio da Claudio, al quale do il buongiorno. Buongiorno, buona mattinata. Buona mattinata a tutti. Allora, ottava edizione Entroterre Festival, abbiamo un'inaugurazione sabato 24 e domenica 25 giugno dalle 9 del mattino. Questo non l'avevo letto, anche questo è un valore aggiunto, perché poi siamo coerenti. Siamo coerenti. Io al massimo alle 6, anche nel weekend, sono in piedi, vado a prendere il giornale, così, caffè, fino a sera, per cui impegno bello disteso. Banda Bo, la musica ti raggiunge ovunque in città, kermesse musicale, luoghi vari, l'ingresso è libero e su prenotazione da eventibrite.it. I concerti serali per sabato 24 giugno, 19:30 in Sala Borsa. Insomma, poi tra l'altro, come ho detto, la realtà della banda è qualcosa che coinvolge, è qualcosa che è diventata assolutamente nel contemporaneo anche una realtà di creazione artistica costante. E ci puoi dire qualcosa di più, Claudio, a proposito di questi percorsi che ha deciso di intraprendere Entroterre? Ma Entroterre è il festival che comunque si muove, no, su tutta la regione Emilia-Romagna, Toscana e quest'anno anche Lazio. E abbiamo pensato di costruire veramente una grande festa dell'accessibilità musicale, sia dal punto di vista della fruizione, sia proprio nell'ordine di una festa, di quella gioia, di quella dimensione proprio di valore che porta la banda. E quindi abbiamo deciso di costruire un progetto che si ripeterà ogni anno, un due giorni in cui tutta la città sarà coinvolta in marching band, camminate e attività che ci porteranno sia in periferia sia sui colli. Sì, la parte estesa che dal centro arriva fino dalle zone periferiche con una colonna sonora costante, le famose brass band, tra l'altro io che sono appassionato di jazz mi è subito venuta in mente questa situazione, ma non solo, i luoghi, come ho già detto, Sala Borsa, Museo di San Colombano a Bologna, domenica 25 giugno da Piazza Maggiore sarà itinerante per le vie del centro, a tale proposito la band Funk Off, quindi avremo modo trasversale di ascoltare diverse sonorità. Allora, la storicità della banda è perché a Bologna? Ma perché la banda, un po' perché sono legato io, cioè tutto il mio percorso musicale è iniziato così, perché c'era una banda nel paese in cui da piccolino vivevo e quella è stata una grande possibilità di accesso a un percorso musicale. E da lì ho iniziato e arrivo qui oggi grazie a quella banda lì, a quell'esempio. Ah, sei rimasto anche in questo caso coerente. Esatto. E poi Bologna, perché Bologna è un po' il cuore, per me è un cuore culturale italiano, quindi poter portare, poter iniziare un festival che guarda la diffusione, che si diffonde nei piccoli centri, nei piccoli borghi, un festival sovraregionale, ma partire dal cuore, proprio dal centro, credo sia fondamentale proprio in un'ottica di connessione e accessibilità. Beh, indubbiamente, poi anche per coinvolgere i giovani alla musica, la banda è qualcosa di immediato, no? Per quanto riguarda il rapporto con i giovani. Assolutamente, assolutamente. Ed è anche un valore da recuperare e da valorizzare. Mettere in connessione con la città, poter mettere insieme bande, marching band, ma bande militari che in Italia hanno un livello qualitativo elevatissimo. Non lo sapevo, ad esempio, questo. Invece leggo nel programma, tra l'altro. Sì, sì, purtroppo in Italia c'era Modena, mi raccontavano un festival di bande militari internazionale. Poi questo è caduto anche a Bologna, c'era la provincia di Bologna, faceva fine anni 90, mi sembra, mi raccontavano un festival proprio di bande. Tutto questo è finito, lo recuperiamo in una veste nuova, in una veste un po' pop, però molto inclusiva, che cerca di guardare a 360 gradi nell'ottica di costruire veramente una grande festa. Sì, tra l'altro sabato 24 giugno ore 19:30 in sala borsa, come ho già detto, ingresso libero. A tale proposito, la fanfara dell'Armata della Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri di Firenze. Ecco, esatto. Già questa partenza è molto particolare. Ci puoi dire qualcosa di più? Ma certo, proprio il primo giorno avevamo proprio pensato di dare uno spaccato proprio su quello che è questo mondo. E quindi iniziamo la mattina con un'edizione speciale della camminata dei risvegli con una marching band. Quindi insieme alla Casa dei Risvegli, per sensibilizzare sul tema proprio, no? Che è un luogo importantissimo a Bologna, faremo una camminata con la marching band fino ai 300 scalini, con attori che si fermeranno, anche questo ingresso gratuito. Il pomeriggio al Museo della Musica, per trovare proprio il valore, ci sarà una visita sonata con musicisti che racconteranno, faranno vedere la musica, cioè gli strumenti. E poi una parte più istituzionale proprio di quel grandissimo valore che è la musica proprio delle bande militari, che sono musicalmente tra le più importanti in Europa, e quindi era giusto inserire nel percorso anche questa tipologia di eccellenza italiana. Certo, poi come sede il Museo di San Colombano a Bologna in via Parigi 5. Senti la storia di una musicista sorda, omaggio a Dame Evelyn Glennie. Ci puoi parlare di questa protagonista? Ma questo è un progetto che abbiamo fatto con il Museo di San Colombano, siamo già diverse repliche, e rientra sempre nel mondo dell'accessibilità. Evelyn Glennie è spettacolo dedicato a lei, una grandissima musicista che ha costruito una propria carriera pur essendo sorda. E abbiamo dedicato questo spettacolo proprio implementando un sistema tecnologico con delle cuffie a conduzione ossea, che quindi ora tecnicamente non so esattamente il funzionamento, ma superando la parte dell'orecchio esterno possono permettere l'ascolto a una fascia di ipoudenti. Ma l'idea dell'inclusività è superiore, perché le stesse cuffie ai normodenti danno un ascolto aumentato. Certo, immagino quindi un coinvolgimento totale per tutte e per tutti. Siccome domenica avremo il Funk Off, puoi restare per un piccolo stacco musicale? Io ho messo questo brano dei Brecker Brothers, i due fratelli che rispettivamente Michael Brecker al sax tenore e Randy Brecker alla tromba. L'ultimo appuntamento domenica 25 giugno alle 19:30 è Funk Off, allora ho scelto questo brano da incedere in stile fanfara con una grande presenza di fiati. A tra poco allora, Claudio, okay. Ci sentiamo tra qualche minuto e grazie per la disponibilità. Grazie a te. stata ed è una big idea in effetti all'interno dell'ottava edizione di Entroterra Festival, la rassegna Banda Bo per questo weekend, sabato 24 e domenica 25 giugno, dalle 9 mattino fino a sera. E arriviamo a domenica con Funk Off, al quale ho dedicato questo brano di funk jazz. Ci sei, Claudio? Sei rimasto in frequenza, in diretta con noi? Bene. Assolutamente. Allora, parliamo anche di questo aspetto in conclusione del coinvolgimento che c'è nella black music e nel funky, nelle grandi brass band, e riportate per quanto riguarda domenica 25 giugno. Chi sono questi protagonisti di Funk Off? Funk Off sono una delle più grandi marching band che ci siano in Europa, sicuramente tra quelle storiche, quelle che portano con sé una tradizione grandissima, hanno girato tutto il mondo, ed era chiudere questi due giorni per poi aprire le 112 date che ci 111 sì. date che ci aspettano, esatto, togliendo queste due nei prossimi mesi del festival, era fondamentale. È un regalo che ci siamo anche fatti, perché è uno dei gruppi che amiamo di più, no? E sarà veramente molto coinvolgente, non solo qualitativamente, ma proprio per la forza, cioè, che avranno di trascinare le persone muovendosi nell'area T del centro, partendo da Piazza Nettuno, faremo via Indipendenza, via Rizzoli e Strada Maggiore. L'idea è costruire veramente un grande, così, una grande sfilata della musica capeggiata da questo gruppo che ha fatto un po' la storia in Europa delle marching band di questo genere musicale. Bene, allora a questo punto un buon Entroterra Festival. Ah, le collaborazioni, ho letto poi, hai aggiunto nella nostra conversazione della presenza dei 300 Scalini, quindi il Teatro dei Mignoli, diverse collaborazioni nella rassegna 2023, Claudio. Ma sì, questo è un po' nel cuore di Entroterra e della fondazione, collaborare con i territori il più possibile. Credo che all'attivo abbiamo circa 20 amministrazioni comunali, abbiamo circa 30 associazioni, e l'idea è quella proprio di collaborare, le stesse bande. C'è stata una felice collaborazione con l'associazione Ambima, associazione delle bande musicali, e questo un po' nel cuore, cioè come fondazione vogliamo lavorare sul territorio, portare cultura, fare programmazione culturale in maniera diffusa, capillare, lavorando con chi sul territorio ci sta e tutti i giorni, come ad esempio l'Associazione Teatro dei Mignoli, lavora e gestisce uno spazio e conosce quel luogo e conosce la cosa giusta da portare. Ecco, noi ci impegniamo a portare la cosa giusta. Bene, e a questo punto vi auguro un buon festival nella rassegna Banda Bo. Si comincia domani, sabato 24 giugno, dalle 9 del mattino fino a sera, e alla sera in Sala Borsa per quanto riguarda l'inizio dei concerti serali con la fanfara dell'Arma della Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri di Firenze. Alle ore 21, Museo di San Colombano, sempre a Bologna, in via Parigi 5, senti la storia di una musicista sorda, è l'omaggio a Dame Evelyn Glennie. Io ti ringrazio tantissimo, Claudio, per questa conversazione e ti auguro una buona giornata. Grazie a te, grazie a voi e buona Banda Bo a tutti. Grazie anche a te, ciao. Ciao. Ciao. Giving my fat to be freeze, more than wearing a cap if it fits.